America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Holy cow! Let's look at this twice. Up one tenth of 1% on GDP. Avete sentito un newscaster americano che annuncia l'andamento del PIL americano, della crescita dell'economia, crescita che in realtà non c'è stata, è stato un po' uno shock la notizia che si è avuta ieri, perché per il primo trimestre di quest'anno, 2014, il prodotto interno lordo americano è cresciuto dello 0,1%, rialzo più lento dal quarto trimestre del 2012, ma soprattutto è un rialzo più lento rispetto alle aspettative, perché ci si aspettava almeno un 1,5% di crescita, ci si aspettava di essere in una, come si dice, rolling position, cioè le cose rotolavano bene, andavano bene, l'economia cresceva. L'anno scorso l'economia ha prodotto una gran quantità di nuovi occupati, svariati milioni, è cresciuta a tassi medi diciamo superiori al 3%, insomma le cose andavano davvero molto bene. E poi questa battuta d'arresto un po' a sorpresa. Dobbiamo preoccuparci? Oppure, è una cosa che ha una connotazione più congiunturale. Bene, la risposta, se non l'avete già data, è la numero 2. Non dobbiamo preoccuparci, ma è una questione congiunturale. Che è successo? È successo che l'inverno americano è stato uno dei più duri degli ultimi decenni, non degli ultimi anni. Del resto, guardate, posso dirvi che anche in questi giorni a New York abbiamo avuto freddo. Siamo ormai al primo maggio, le rose dovrebbero essere in fiore, dovremmo avere un bel tiepido calore primaverile, e invece no, c'è un vento freddo. Ha piovuto, piove, siamo a 5-6 gradi, voglio dire, ecco, ci vuole di nuovo il cappotto, ed è un po' la matrice che ha caratterizzato tutto questo 2014 e fine 2013. L'inverno è stato durissimo, ricorderete, abbiamo dedicato anche delle trasmissioni a quello che era stato il vortex polare, questo vortice polare di super freddo che veniva direttamente dal Polo Nord in un movimento circolare ed era passato attraverso gli Stati Uniti. Cosa succede quando ci sono queste ondate di freddo? Beh, succede che tutto si paralizza, perché noi possiamo vivere nell'era dell'alta tecnologia, di internet, del 24/7, dove tutto funziona perfettamente, tutto è programmato, tutto segue dei ritmi assolutamente precisi. Fino a quando madre natura non si scatena. Non voglio entrare qui nelle polemiche sui cambiamenti climatici, lo abbiamo affrontato in altre occasioni, voglio restare però sulla questione puramente economica, perché quando ci sono delle bufere di neve, quando la temperatura scende a meno 20, meno 25 sotto zero, addirittura a meno 50 sotto zero in alcuni stati del Midwest, come vi ho raccontato, la gente si rifugia a casa, gli autobus non funzionano, i treni si fermano, i camion da trasporto non possono procedere, i consumi diminuiscono. Allora, una cosa è se questo succede per un giorno o due giorni, una cosa è se è una piaga prolungata, come quella che è stata, devo dirvi e devo ripetervi, quella che abbiamo avuto nell'inverno scorso. Ecco, perché vi parlo da New York in questo primo maggio, festa del lavoro in Italia? Perché in America, come forse molti di voi sapranno, il primo maggio non si festeggia. La borsa aperta, si lavora normalmente, il Labor Day, la festa del lavoro, è il primo lunedì di settembre. Ed è soltanto qui, soltanto in America, una delle tante cose diverse che sono state stabilite e decise negli Stati Uniti per differenziarsi. L'idea che questa festa facesse parte in qualche modo dell'internazionale socialista, agli americani non è mai piaciuta, e dunque si sono organizzati la loro festa. Il primo maggio qui non conta assolutamente nulla, è una giornata normalissima, ed è in questo contesto che devo dire già questa mattina si sta riflettendo appunto su questo dato di di ieri. Vorrei entrare un pochettino più nel dettaglio per darvi anche un po' di parametri, perché rispetto all'anno scorso, quando abbiamo avuto, per esempio, nella seconda metà dell'anno un'espansione addirittura del 3-4%, come vi dicevo, nessuno si aspettava che potesse esserci una posizione così di blocco. Eppure c'è l'ottimismo. Perché? Perché abbiamo avuto dei dati su beni durevoli già qualche tempo fa, quindi proiettati in avanti, che stanno andando bene, i consumi tengono. Soprattutto la Federal Reserve prevede già dei rialzi per il prodotto lordo dei prossimi trimestri fra il 2,8 e il 3%. Lo stesso vale per gli economisti privati di Wall Street. Si aspettano un tasso di crescita almeno del 3% per il resto del 2014. Per questo la borsa ha reagito relativamente bene, non ci sono state preoccupazioni di ogni genere. Per questo si attende invece, nella solita dinamica Federal Reserve, tassi di interesse, pressioni inflazionistiche, creazione e occupazione, il dato di domani sull'occupazione americana. The Federal Reserve is using its monetary policy tools to promote a more robust recovery. La Yellen, Janet Yellen, già insomma ormai avviata, ormai conosce la macchina alla perfezione, e proprio a conferma che quello che è stato l'andamento del primo trimestre del 2014 è semplicemente un singhiozzo. La Banca Centrale Americana, che si è riunita, ha finito le sue riunioni del Federal Open Market Committee ieri, ha emesso un comunicato in cui ha detto che non ci saranno alcuni cambiamenti, si continua con le operazioni di rallentamento degli acquisti sul mercato, quindi dal QE3, il quantitative easing, altri 10 miliardi di dollari di acquisto saltano, siamo scesi a questo punto a partire da oggi a 45 miliardi rispetto agli 85 miliardi con cui si era partito. Questo è un messaggio di fiducia da parte della Fed, si dice sostanzialmente sì, di nuovo il tasso per il primo trimestre, il tasso di crescita del primo trimestre non è stato soddisfacente, non è stato positivo, ma non ci preoccupiamo. Perché non si preoccupa la Fed? Perché ci sono dei dati, vi dicevo, che sono usciti, per esempio sulle spese ai consumi, che ci dicono che sono aumentate attorno al 3,3%. Certo, c'è stato un calo del 7,6% delle esportazioni, un calo dell'1,4% delle importazioni, forse noi ne soffriremo un pochino, un calo degli investimenti residenziali, diciamo del 5,7%, spese del governo federale cresciuta dello 0,7%, ma nei tre mesi precedenti c'era stato appunto un ribasso del 12,8%. Questo per darvi un po' un caleidoscopio di dati che alla fine ci porta a un'equazione tutto sommato positiva. E dunque un buon augurio anche per l'America, che non festeggia il primo maggio, perché l'idea, l'auspicio e la speranza che noi vorremmo poter condividere anche in Italia in tempi brevissimi è che la forza lavoro aumenterà e il tasso di disoccupazione continuerà a scendere. Vedremo domani se sarà già vero. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Il 13 maggio esce Blue Smoke. È un nuovo album di Dolly Parton, la grandissima Dolly Parton, il suo 42esimo album, pensate, la regina della musica country americana, celebra 50 anni di carriera di Dolly Parton. Blue Smoke. No land road I'm leaving, and I won't be coming back. Blue smoke rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Blue smoke climbing, blue smoke winding. It's rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Oh, blue smoke flying. I said goodbye, yeah. I'm rolling, rolling, rolling, rolling, rolling down the track. Da New York è tutto. Mario Protero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.